Pastore! Chi è? Un buon buio. Aspetta, mi gioco per vedere la bustina. Guardate se i biglietti, mi stecchinina. E vai, coccoi. E me, graziano coccoi. Ehi, dimmi, dimmi, a te mi prendo la bustina, pure a Trumani un coccoi. Arregliami. Mi raccomando, pigliati una solo, però, non dirgli, eh. Ehi, non credo. Non credo, lei dai suoi a chi si abbiglia di chissà cosa, va. C'è a pompa ancora, è a pompa. Spero, grazie, ritiro a chi. Forse è più abbigliato la fiagra. Cazzo, che maraglia. Ma dai, sapete da chi ti bussa su Facebook, mi grazia. Beh, dai. Se mi lo rendi, mi t'arriccia, nimi. Chi sa di fare la mamma, se ti fai, se t'arriccia. Ma te t'arriccia, mi barò. Lui. È sicuro. Gigi, come canta sta? Di chi stai parlando? Di Luca Prispero. Però non conosco nessuno io. Morto, vecchio, morto. Cos'è, grazie? Flipper, che si ha qua? L'ho visto poco fa anche. Da quando ha fatto il dinero si può fare il dato. Da quando è diventato impresario. Si può permettere di assumere di licenziare sul personale a Piazza di Giulio, hai capito? Vero lì? No, secondo me è diventato tutto macco e diverso. Sì, ci sono ridinare la mia figlia, andiamo male. Qui c'è tutto il travaglio, l'affanno a farrà. Ciao Maria. Truffe da raffaelli. Ah, c'ha rubato, ce l'ho fatto di peggio. Avvio. Ah, cioè, mi ha mandato una fotografia, cazzo, con un piacere, con i cosci di pollo arruzzetti. Cazzo, ma da vedere, è arruzzetti, cosci di pollo, saluti. E allora, quello prendo di bene, ti terrasso a giudizio. Ma ne manco pari idea. La ziota gli ha messo qua per un porro ventilato, gli ha fatto un martello, vero lui? Mi chiedo, non ha freddo, eh. E tu dici che fa sangue nei veri. Non è come c'è te in albogo, e non ha un me, ha detto che ha sempre gaggio, vedo. Ti sua la pelle dai, no? Ma tu non lo sai che è nato in montagna ed è pagisso. A sé non riesce in montagna. Vabbè, montagna no, ma in collina sì. Ah, un dir nato a Sennari. E allora, a Sennari è nato, Luca. Sabì, campagna. Caccia. C'è nato chissà campagna, ya. Chi è nato in chissà campagna? Si è andato giù. Attra lì, ma appoggiaggio, dai, non ti posso vedere i conigli. Di situazione, cazzo, è un paio di circusiebo. Ogni asarrone, chissà cabine, chissà gazzetta, ma se non direi la macchusetta 150. Tutti macchurelli, ma maduri, io non ho visto mai questi maduri. Allora vedi chi mi l'ha andato a vedere, buca la caprabina, si apposta e incomincia a cacciare, vero lui? Carità. La città si possa morire a Ivi, gatta, che fatti un disastro, fatti, e fatti subito a rotture, fatti. Gira, bravati, appoggiati in giresa, per sono me per ommi. Ma un me, io non ci dico mai, sarrone questi maturi, ma un me. E a chi che sul programma che sta mai di Alaska, che andano a un fiume a caccia, che cacciano questi sarroni giganteschi, si chiamano marsupio, li chiamano topi marsupio, roditori, un abbezzo di sarroni, e come si ribigliano, li sparano, da poi gli rivolgono la beggi, la belliccia, e si rimagnano. Non l'hai visto questo, Giammari? No, chi se non la giudice mangiate, se mi dica che fa, che ammazzano i cosi, li, come si chiamano, i babbuini, va bene, ma di chi se lo ha giudice, a mangiarsi i sarroni, no, a giudice il cazzeggiare, cosa so, cose, pisole d'epa, cosa, occhio come Samara sotto so, dai, diviso, cervi, vedi cazzo, vedi, bisogna mangiare sarrone, viso. Ehi, prendono anche i topi, quelli del fiume, e si rimangiano, e andano in barca, e di no, camminano, e quando lo vedi lì, chi è nudenni, no, andano un cannizzo, li tirano con un fusile, e si ribollono, un abbezzo di sarrone, e come si rimangiano, che schifo. Ecco la famiglia che la moglie è eschimese e c'ha il tatuaggio nel mento, c'ha tre o quattro segni, c'ha dei disegni nel mento. No, io questo non la giudico proprio, eh. L'altro sì, però pesce la giudico di dai, di ricerco, caccia, l'occhio di chi si andava in mezzo al ghiaccio, ma cavolo si chiama. Ma proprio, ah, e cosa ammazza il muro, come si chiama lì, ci picchia, cazzo, come si chiama lì, non me la metto, poi non me la metto, mi sa che cazzeggia le barabitti. Prendono cazzori, prendono topi, prendono... come si chiamano i tacchini, i selvatici, oche, gabbiani, uova di gabbiane, di oche, tutto che ci può mangiare e ti cacciano, qualsiasi animale, lo mangiano loro. Vuol dire che sono abituati, c'è già fino lei che mangiare chi piglia. Cazzeggia, cazzeggia, per cui però, a mangiarsi i serroni, no? Non l'ho visto io quello lì, non l'ho visto. Quella famiglia che la moglie c'ha nel mento il tatuaggio, c'ha tre segni, un disegno, ed è eschimese la moglie, lui no, ma la moglie sì, e c'ha quattro o cinque figlie, tutte femmine. In casa sua era un maschio, l'unico maschio è coiuvato. E vivono lì, vivono. Ed è un marito che gioca a bippini lui. Non l'hai mai visto quello che va anche con le figlie a caccia? Adesso me l'hai ricordato, sì, che c'ha 4-5 figli, c'ha tutti a figli, infatti vanno a caccia anche le figlie insieme alla madre, capito? E adesso me lo ricordo, sì che l'ho visto quello lì, però che abbiamo ammazzato i sarroni, no, perlomeno non mi è capitato di vederli. E anche ieri c'era, me lo stavo guardando ieri. Li prendono, li sparano dalla barca, no? Come si rivede se c'è fuggito in mezzo al cannizzo? Di gira, li dugni a vesto, di sarrone, una sera me li ha messi sino a pieno una vacca. Poi si sono tutti appintati vicino a un rio, i vivi, marito, moglie, figlioli, a pulirli, no, a mazzarla, a tirarne la beggia e tutto, che schifo. Poi la notte si è arrivata la cazzarola, un sughetto. Vuol dire sì, magari sono buoni a mangiare e li rimangiare. E vabbè, sono cinesi, infatti, sì, forse sono abituati a minore, chissi. pucci pucci. Gli orsi, ammazzano anche gli orsi per la pelle, capito? Parabete e paragarri, chiaro credo. E ho visto, hanno preso anche un orso, una di un altro filmato. L'hanno messo che scugliato, ha pulito quella bedi, l'ha buttata in paese e si l'ha fatta a scambio di merce. Ed l'ha dato la pelliccia dall'orso e ed l'ha dato un bidone di benzina. Luca, parente di stasera. Oh Luca, cosa stai facendo? Ti la giudici che hai pigliato via Colonchi, chissà cosa fai. No, sto andando a farmi la doccia, guarda, mi sta aspettando, rimango in ascolto. Poco fa stavo giocando col telefonino, Graziano, mica solo tu giochi con il computer, pure io gioco con il telefono, Hai capito quello che è, eh? O vuoi parlare con muro? Ma, non mi credi, tu, Giorni Maria. Ma se non vedo io non ci credo, se non vedo. Vedi. Oh tu capi ci sta buccino, sei stato mandato e ci mangia un cane in bocca, linga e linga. Più che buccino c'era un po' assì. Mia, la bandena vede, ha già uscito. Oh, cosa ti provoca? Un sacco di malattie. Il cane, 10 malattie c'è scritto in questo sito. E chi sa schifosa se mangia, se mangia in bocca, rugani, linga e linga. E mi la mantieni buco con la bocca soia, la linga, non l'hai visto? Lo schifo, per carità. Uno schifo, dai, rimango in ascolto. Ehi, chi sei malata di cervello, secondo me, chi sei marca? O in astinenza lo stracarregheggia l'isciuro e se violenta in locale bisogna fare una denuncia a chissà al coso degli animali. Bene Giovanni. Che da qui c'era abbiamo messo a posto lui. Quello del computer abbiamo messo che è giusto, capito? Tutto una cannonata là. Ho capito, no. Da questo che ci stavamo parlando ieri, abbiamo messo quella presa, come cavolo si chiama, del computer, che giusto, anche i buchi delle vite fanno bene. Ma cosa avevo? Un diploma per ponerlo a posto. Io c'ho... come si chiama? Quel coso che si scalda con l'accendino o l'aria calda, no? Che poi si restringe. Il forno? No, quella guarnizione, tu con lo sal di filo ci metti quella dopo. E un ricordo, se rivolto bene Giovanni, se non rivolto, ma fa una cagata non rivolto. No, ma questo è giusto, proprio sembra il suo originale, sembra lui. Va bene, sembra proprio l'originale. Per cui è preciso e identico. Siccome molte volte si fa una cosa, va isolato, cioè questo coso che lo metti, no, dentro il filo è largo, poi lo scaldi e si restringe. E fa un bel lavoro, fa delle aggiunzioni dei fili. Ho riparato qualche capo di computer, capito? Quelli importati, lo spinotto. Che molte volte vai, si stacca il filo e si interrompe, allora taglio. E poi con quello faccio tutte le aggiunzioni, esce un bel lavoro, dai. È meglio così, comunque se te ne servono di quello, un ventolo, fammelo sapere che ne ho quante ne vuoi. Abbiamo messo anche quello che stai dicendo tu, dopo che è stato salvato, proprio il coso suo, proprio il calabro suo, l'abbiamo scaldato con l'accendino, adesso è perfetto, l'ho fatto bene, dai, è fatta la regola d'attimo. Di quella roba ne ho due scatole io, le avevo prese dalla Bricome, e ce ne sono tante misure, capito? Restringente, così si chiama? Sì, più o meno sì. Ne ho due scatole, le avevo prese dalla Bricome. Cazzo, le ho visto, ne ho uno qua in un magazzino. E per cui, infatti, io quando adesso dei fili, no, che li aggiungo, ci metto quelle lì per evitare che faccia contatto, capito? Li riscaldo con l'accendino e diventa bello, giusto, perfetto, capito? No, va benissimo adesso, Va proprio bene, l'ha presa, la precisa identica. L'originale, sembra proprio originale, e basta. Perché abbiamo risaldato il vecchio e l'abbiamo messo quello nuovo. Ed è precisa quello del computer, precisa identica. Io ne ho quanti nel fuori, non ce ne sono problemi, ho anche interruttori di computer. Già ne ho, dai, mi accetto, rimango in ascolto, vi ascolto. A dopo. Ehi, ehi, d'accordo. Va bene, mi prendi. Grazie. Ehi, ehi, ehi, qua è una resurgente si chiama quelli. Ehi, mi pare che la giù qui, ma ho usato una volta solo. Ma quello va bene. A uno che lavora un bel su queste cose così, cosa me ne può? Ma di tutte le misure ce ne sono in quella scatola che ho io, di tutte le misure, per esempio vanno bene, ci sono anche quelle quando fai lo spinotto, no? Cambi uno spinotto per il baracchino, ecco, a ogni cosa ci metti in un pezzo di quello lì, lo scaldi e diventa perfetto, perfetto, si chiede, non si distacca nemmeno, capito? E per cui la guerra risorgente, quella è una cosa molto buona, capito? Sì. Ne ho due scatole, di tutte le misure. Sì. C'è anche grosso, mi sembra da 3 cm, 4, capito? Per dirti no, ce ne sono tutte le misure. Ehi, già è buono, già sempre, serve sempre, può sempre seguire, ma... ma io non mi tratto di tanto, non aggiungo di smontare nulla, non aggiungo la cucina nulla, mi sto andando la piccola e la recuperata la ventolina, la devo solo piazza dell'aspiratore. E poi ho preso anche delle prese, roba correnti, un poco di roba, anche se ce l'avevo, però qualche presa è sgangherata, io l'ho presa e gliela cambio. Ehi, ehi, ehi, fanno sempre comodo, dai. Va benissimo, va benissimo. Ok, vediamo un po', Tore, mettore le macchine, boh! Ehi, si avvicinano i Natale, si sono preparati, un fondo, ma che mi ha dato un buco di spray, che spruzzi antimuffa, a spruzzo, a chi l'angolino gli danno per la ventola, beh, si è fatto un po' niente a chi non funzionava la ventola, gli spruzzo un po' di quello, e da voi lo buco è rimasto un pennellino a vinta. Alla presto ho pigliato la via. Ehi, ieri l'ho presa, ma non l'ho messa, perché nell'angolino su in alto, la bovita, da vicino al buco, mi ha fatto una macchietta nera, la muffa, perché non funzionava l'aspiratore. E dunque prima devo spruzzargli quel prodotto che ho comprato. E poi dopo l'indomani gli do una fregatina e gli faccio la tinta. E poi mi piazzo la ventolina. Meno così, almeno ha risolto qualche cosa che ti serviva, va bene così. Ehi, ho preso anche uno di quelle guarnizioni che attacchi all'esterno, dietro le porte, antispiccioli. Anche uno di questi mi ha giocato un parato. Vabbè, può sempre servire. Ma la ventola nuova l'hai presa? E allora, vecchia, viene di tutte le misure di tutti i brici. Se è nuova l'ho presa. E dove l'hai presa? Alla Bricome. Ah, ci sono tutte le misure, no? Sì, io ho preso la 120 perché 130 non c'era. Ho capito. E meno male. E meno male che c'erano. No, ma lo sapevo io che c'erano. Le avevo viste dall'altra volta. Quelle ventole lì. ma anche quelle ruotelle che si mettono nel vetro, in alto qua, nella veranda. Anche quelle rotelline ci sono, le avevo comprate lì a cambiarle, nella veranda le rotelline. Infatti una le devo pigliare che si è fasciata, a furia di ira si è consumato il vernino e si è parata da io. Non è rimasto giù un pezzo di Trento, però per non entrare l'aria gli ho messo un pezzo di nylon, già non si vede, però ci vuole la ventolina, capi? Mi sono dimenticato a pigliare l'uscita. E vabbè, già andava la caravanda per pure uscire. Vabbè, l'importanza è che abbi messo, quella che ho comprato, almeno ce l'hai a posto. E va bene così. Ehi, ho preso un po' di riduttori di corrente anche, se vieni sempre, un bel gusti. E anda a seccarlo, sai che chi viene la gatto male. Ah, va, me la recuperato un poco. Attacco grande, attacco piccolo, rotonde, di tutti i mani, se vieni sempre in tanto. E chi è? Chiamato. Oh, ho visto due colpi importanti. Sarà Torre, sarà Penny, la rete di Maccato. Oramai pure lui ha imparato a fare il mercantiere. Davvero? E allora, oppure il Bacchiglio che è in cerca di figli da 30 la gara a fiori. Non lo sapevo, E allora, io. Ma, Tore, vieni avanti, aiuta, non ti frusto. Non è Tore, sino Tore sarebbe entrato subito. Non è Tore. Allora avanti, chi è che voleva entrare? Bello me. Voleva rimanere incognito, dai. Ah, Pomponio non si è sentito. Pomponio, sarà in Torneghis, sarà là, in ufficio dello fratello di Giuseppe Leoncino. Se no è nata che ti cala canali dello telefonino. Ma non credo, Già ci basta, è l'altra volta. È uscito lui e stava chiacchierando con quelli là. Oh, così fa, zia. Vabbè, guarda che li piace a fare così. Infatti sono entrati a salutarlo e da me mi ha salutato questo. Mi aspetto 5 minuti, grazie. Vai, già sono qua, fiamma. Attento, gufo! Oh, Luca! Tiziano! Aspetta, te la migliameni e non c'eri, aspetta un attimo che sto inviando questa roba. Ecco qua, questo qua, ok. Ho preparato tutto ai balloni, sì? No, sto guardando su internet e quei gamberi che portano da fuori. Abba, vedo una regina di indigene con le siringhe li sono riempiendo i gamberi con un prodotto puzzinoso, baricolla, abba. E da poi i pacchettaggiani rimandano in Italia, beh, sembra gente. Sono piccolini gamberi, ti ripompano con le casinga, gli iniettano questa porcheria dentro. Sì, ma in Italia già lo sai che no, non va arrivare chissà cose. Non va arrivare neanche sono stati controllati. Perché dice ne stanno arrivando parecchi, guarda, del gel, sta di silicone, gel trasparente. Oh sì. televisore intendo. Dall'Argentina ripeto, arrivo dall'Argentina. Sì, ma quelli non ci arrivano neanche qua. Come ti arrivano i carabinieri, controllano e gli spediscono torna dove sono arrivati. Dall'Argentina arrivano tu. Tutta roba dell'Argentina, Questi qui non lo so da dove sono, esci a vedere, lo riguardo. Però gli stanno iniettando del gesso con i gamberi grigini. Otto, ma lo sai che sta roba bassa lì? Ah, e i carabinieri si muovono abbassi. Canta e canta roba bassa, to, non hai idea tu. A Tommy! Sì, quando sanno di queste cose qua stanno allerta subito e vanno a guardare da dove arrivano. Dall'Oriente hanno aumentato tre volte il doppio dell'anno scorso. L'invasione che stanno mandando un po' di chi, i gamberi così. Hai capito? Una specie di gel all'interno gli iniettano con la siringa, lo sta facendo vedere. Non si la mangi noi c'è buccaria. Sì, ero già così, basta prendere quelli che sono, che già si vedono come sono. Questi sono quelli grigi, gli sta facendo vedere. Ne ha preso uno in mano, quello lì, che lo stava riprendendo, l'ha piegato. E chi suggerì si vedeva anche dalle venature del gambero. Poi se gli hanno nebbiglio di chi si io, che non mi piacciono. Ah, io già, quando il biglio sono visto lui, e poi io rimango uno, due il massimo, non di più. Ho preso Gio Marì. Ah, ma che aspetta, ma è da sono lui o grigini? Ma quando le cugini diventano i rugli burughisci. Già lo so quando li cugini, no, ma questi erano grigi in sé. Per diventare rossi li devi cucinare, già lo so. E basta pigliare direttamente i cugini, a chi si danno i grigi, chi ha rifatto gli avanti. Perché quelli grigi sono quelli di acqua salmastra, hai capito? Vengono dai fiumi, vengono. Sì, già lo so, dai paesi orientali, già l'ho visto nei documentari, nei fiumi, un bel gambari vi so. Sì, però invece di smandarli naturali come li prendono, li so in grande indietro con questo sistema, capi? Sembra un silicone trasparente, sembra. Glielo iniettano in tre punti al gambero, capito? Vicino alla coda, più su lì, la panza, a metà e vicino al gusto, e l'ingrossa, capito? Sì, ma in Italia sta tranquillo che quando arrivini sono controllati subito, se fanno chissà cosa adesso se ne dovrà a Rugoso andare a finire alla discarica. Lo so, li sequestrano e se non fanno tutta la discarica, e non su, si dirigeggia di muro. Infatti, la grande, un mesetto fa, non so quanti gambari sono rampato, che come ti sono arrivati a Radogana, verranno controllati. I nascita hanno abbaidato ed erano tutti quanti di questa maniera. Quindi hai pigliato via alla discarica. E noi qui ne c'erano i gamboni. Non hai visto oggi al televisore, ha detto, hanno arrestato un nigeriano, va via, 42 uomini, 30 la panza. Mi sembra a Olbia, allo scalo di Olbia. In nave è giunto a Porto d'Ora, non ho capito bene dove l'hanno preso. se ne è accorto il cane del finanziere che l'avete imbottito di ovuli a Porto Torre sera. Oltre 100.000 euro di merce di valore va via, chissà animale, ed era destinato a Sassa di quella roba lì. E infatti, chissà che sta roba regale, lui da. E gatta cosa siamo magnetti, gatta, è tutta roba che per la fuori, grazie. Ehi, no, già molte volte nelle scatole già c'è scritto di dove non è, ma sta leggi la scatola. Ma, oggi, magari la roba, come tutte le cose, come c'è la carne, no? La carrivona c'è la boccia del continente, dal continente la regalerà se di più di carne di ai rogue, capito? La carragnone, ma te si fa di ricucino, come tutto, cacio, tutto. Ai rogue si arregla la roba che non serve e noi abbiamo la roba genuina. Come te, il pecorino. Ti tadello che ti mandano il rugaggio saggio a Roma. E da Roma ti mandano la montessa su, e dicini che è pecorino. Se non è teso, quando rimani, no, è nata da rimani. Cane fattura dalla bruma del pecorino, a vedere, caro. E un pecorino buono era che si usano. Che se che venga dai a di seconda categoria, l'hanno detto i nasci, l'hanno fatto i controlli, ed era per il marchio, che il più buono era quello sardo, non quello di Roma. Già l'ho visto quel programma lì, già l'ho sentito già. Per carità. Ma lo sai tu cosa ha fatto? Il latte viene anche dalla Francia, dalla Sirughi ai Ronchi, e il latte buono dai Ronchi ti ricordi di chi va, ma hai capito cosa fanno? Fanno questo lavoro che è una zanta per italiano cosa combina, hai capito? È un macello che soffende. La roba buona dai Ronchi, se non so c'è da fuori, di chi da di fuori, chi lo siede, la sua richiesta dai Ronchi. Ciao Giomaris, come era per il marchio, stavano bisticciando per il marchio, che toccava a loro fare il marchio del pecorino romano, no? Allora Inas hanno fatto, dice, beh, aspettiamo a vedere chi è il più buono. C'era due qualificati proprio per l'assaggio, e dice, no, il pecorino romano è quello sardo buono. Non questo vostro, perché quello vostro arriva da fuori tutto il latte. Invece quello là arriva dalla Sardegna, è tutto dalla Sardegna. Ma è così, già lo so, già l'ho visto quel programma. Sì. Era in agitazione proprio per il marchio. È famosa che il pecorino romano, che deve avere la roba nostra e pone un nome un romano, basta capire io. Boh, non so cosa ne hanno chiamato a Pizzo, allora si sono riusciti a eliminarla che su particolare. Infatti, quello di Roma gli hanno messo come seconda categoria. L'hanno messo il marchio, l'hanno detto, ho cambiato il marchio o ve lo tenete di seconda categoria, l'hanno detto, vendete come pecorino romano di seconda categoria, e così non ne compare già nessuno, anche il più buono è che sono usato un bruppio, che sta andando avanti, è compreso, ma gli ha dato però mi mancano cose, no, che rosignare. E mai visto dopo lo faccio vedere gli autobotti pieni di latte anche portandoli in Sardegna, questa. Non hai visto? E quelli della Sardegna e latte lo stanno portando su. Anche questo traffico stanno facendo, dicono che sono sardo, invece non è sardo il latte, capito? Ma adesso sai cosa hanno fatto tra la regione e i carabinieri con i NAS? Dice il latte è sardo e rimane qua. E non entra altro. Viene bloccata qua Virani, la regione. Gliel'ha bloccato tutto quanto. Adesso devono usare solo latte sardo. Compreso. E così deve essere allora. Deve essere così, basta fare entrare latte da fuori. Chissà da bere il latte, gatta. Da adesso bene, mi dalla Francia, cazzo, dalla cosa, dall'Austria, che sono arrivati in Italia, tanti che ci cose. Ma forse chissà cosa mi muore, cosa è buono, caro, un attimo, qua ci sono sempre di buono di tutti gli altri, capito? È tutto il sistema più buono, la Sicilia che fate, capito? Sì, dall'Ungheria, l'aveva visto un programma, 8 botte di latte, ai gasifici, carrenni in Italia, latte dall'Ungheria, dalla Bologna, pucci. E poi fatti allora, ma se è vero che non li fate rientrare i rocchi, se li fate ripresi non li fate rientrare, già si ne è latte i rocchi, a fare chi ci trovate di soffrendi, praticamente da voi è la roba saggia sempre di buona, come te la carri. Gatta, ragione, tu sei ragione, gatta, se ne sono facendo il continente, gatta, chi c'è di continente, li sono arrivati ai longhi, ma la roba nostra è saurita, mentre quindi non ha saore, carri, cosa carri? Ma dai, gatta, aiuto. A chi li date una mania roba chimica in mezzo all'Uviena, i cigosi, chi si pone in roba chimica in mezzo? I nuovi saldini, roba chimica, non li mangiano i veicoli. A chi praticamente no che so, mangiano allo stato brado le pecore. I continenti sono pochi che mangiano allo stato brado le pecore. Se non le allevano direttamente dentro le stalle, di tanti che sempre a mangiare da quelli mugni, ne sono sempre 30 le stalle. Fai già assaggi un attimo saggio, è un attimo continentale, ha tutto altri sapore, dai. Davvero. E no, che l'altro brutto sapore di solito non arriva da Marco, ma chi ha alle cose come ti chiama, alla centrale latte, ma se tu assaggi un latte vero, è tutto altro sapore, più sano buono, gatta, dice perché non è scremato, così è là, vai, l'altro è scremato, ma io mangio un latte che non è scremato, sai, dice, più buono è sano buono, senti qui, vi sono fatto un giro di latte, se lo è scremato non lo può mangiare, ma però lasciamo per dire un latte veramente che non è scremato, che è munito e mangiato, è tutta la stessa cosa, dai, aiuto. Già così sì, no, non ne fate nemmeno entrare, avanti, tu vuoi baragnoni, ma te si cosa, li vuoi portare fuori, puoi portarli. Però non viene entra più roba nel negozio, ha bloccato tutto, la regione gli ha bloccato. Se si volete così, se no, ve ne tenete conto. La garra, ragazzi, la garra, ragazzi, dai paesi bassi, ragazzi, babbo fuori dalla Polonia, tutti sai, ragazzi, babbo fuori di sì, la garra, e ragazzi, arriva io, ragazzi, non ha saori, e tu invece piglia la garrisaccia proprio, intende proprio il saore della garra. Chiamare i maggiori, chi non puglia ne arregalò e ti passava un gambio. Però chi c'è tutto l'artigiano, manca a fianco, anche se a Bucaria che vende lì, il continente l'urati. Ci siamo già promodulati, tu conosci? No, già ha risposto Graziano e poi rispondendo in due. Che la roba sa è sempre di buona. Ma solo che i loghi erano inquinati di tutto. Anche pure i loghi erano inquinati di tutto, se no si attrizzano quasi di mezzo di continente lo che muro, per carità. I rigasifici, certo. Io riso qualche cosa, dai, per cui il latte saldo è stato sempre, è un prodotto sempre genuino. Tore! Dimmi, grazie. Non l'hai visto su internet? Abano ha lasciato 80 famiglie a secolo, la tronca dureva. Via Donizetti e via Leoncavallo. Ma è scusa, se è fasciata la condotta e non riesce a ciappandire la condotta, è fasciata. Allora, una bella, tutto una bella, dopo di tanto sono riuscito a ciappare anche la condotta è fasciata. No, anche chi ha che sono morosi, no, non li so pagare niente, perché non hanno i contatori, il rastrelliera non ne hanno, ed è unico il contatore, e nessuno l'ha mai pagato, e c'è un debito di 100.000 euro. Allora si è girato l'elica, ha mandato e ha strassato tutto. E a Rosai che non lo può fare a Banoa, eh? Che non lo può fare questo. E infatti le ruligene azzurra. Il sindaco è andato immediatamente a riallacciargli l'acqua, almeno il minimo dovuto per poterlo utilizzare. Per lavarsi almeno un minimo, ma insomma, e da poi sotto le vesti di Natale mi intronchireva. Adesso dovrebbero mettere, perché gli inquilini hanno fatto le domande, le proposte a mettere a ogni famiglia il contatore singolo, che di regola è meglio così. A chi i condomini con contatore unico, lo sai che per sempre chi ti non paga. Dunque, ognuno si paga la suia. Infatti deve darsi così, a ognuno gli mette il contatore suo, allora quello si paga l'acqua sua, si paga. Ecco cosa è. Perché tu che non ne paga, sapete se la paga va. E allora? Invece non gli dà mai molto a mano al contatore, e non, però non gli vuole manco truccare il sindaco la vita. Si organizza e gli mette i contatori e pagano quello che gli è dovuto. Comunque io ti ne avevo staccata a stelle, ma che tu la paghi e ti ne avevo staccata. E infatti l'ultimo bollettino l'ha pagato la strada. 178 euro, hai compreso, bello bene. Appunto, la paghi se mi aveva tassato. E abbia pagato l'altra mia, un mese passato, ha già fatto, fino a Nikita arrivendimi il carro, ha detto vai in ora buona, boh, tre bollettini, 178 euro, e ho pagato il bollettino unico e l'altro se l'ha giù la fatta la mondezza. Ma dai, dato una data di Candue, la scadenza, vai da darai. Che questa è l'ultima che arrivi del 2 gennaio, mi. Già lo so, io ho pagato il bollettino unico, ho pagato. Già lo so che scade a gennaio, e la Giulia ha pagato. Burocrazia. Figli burocrazia cielo, no? Per un capo condominio. E una, mi pare del sesto piano, no? Non ha pagato mai l'EPA, e l'EPA se utilizza l'EPA. Allora non riuscirà a fare che cosa, per dirlo anche l'EPA per la diciaccavani. Ha pigliato, fa due giorni, ha diciaccato il contatore a Ghisso. Piglia Ghisso e l'ha denunziato, sa che l'hanno condannato a pagare tutti i pesi del tribunale, non lo poteva fare a distaccare l'acqua a quello lì, a grattacielo io di dire a te. Già lo so già, non ti ne può truccare, pure sei moroso, non ne può truccare, adesso non è giusto che su 80 famiglie per un contatore. E come ti fai tu a sapere? Tu ne consumi più di me, io più poco di te, chi tu più poco di me, chi d'altro di più di tutti. E ti sembra come devi mettere una quota tu uguale a per tutti, non va bene così. Basta pulire i contatori e ognuno si paga la sua. E dovrebbero fare così. Dovrebbero fare così, perché se no è un macello, che ha pagato qua? Ma che mai io devo pagarti le a te? Non lo so io. Però prende così, ognuno si deve pagare la gioia, e basta, non li paghi, ma non ve la puoi ricercare manco, senza ma non la puoi, non una famiglia non la posso lasciare senza acqua, capito? poco poco la deve avere, lei va. Domani non ne avevo attaccata. Di recuperare attaccare, ma sì, è così un medeva e l'orto botanico e non le paghete, capito? E io vi abbiamo fatto pagare doppio di savoletta. A pensa che è vero, ma non è tratto. Ah, si faccio la raccolta dell'acqua, la incanaleggio e ce la chiudi la gabbicciuria di sotto. E non dirà nessuno. Allora sai come ti dirà la cosa. Dirà per il dai. A parte che va via la piscina e non dal razzo di sotto. Chiamato i buon piedi, o se ne riparava la mova dai capo. Ho preso e cosa va via, ecco, però se non li pagava così, ma un vedeva non li pagava mai. Sarei che c'ho io grattacielo. No, Luca, il terrazzo più in basso del mio, pieno d'eva, a chi va via un tubo di carro gotturato, una piscina. No, io non ho compreso qua, però, grazie. Dove abito io? Dove c'ho nel terrazzo il giardino? Il terrazzo più sotto di me. Quel terrazzo lì era pieno d'acqua, non c'ho giunto i buon piedi. Non mi sono entrata a chi l'ha bene. L'hanno pulito un poco così, un pezzo di roccio, una bara. A chi l'ha bene, papà gli scizzineva. E piano piano gli ha bisogno di scizzi. Ci vedrà lei il babbuno dentro. E chi mi ha dato a me a pulire la ghida e le garbi. Ne rubo giuro. Però nel terrazzo, questi tetti sono a terrazzo, non l'hai visto come sono. E per solo che lì, per arrivare a quel terrazzo, da me devi mettere una scala e scendere. O sono dalla finestra dell'inquilino di sotto, già ci arrivi, salta il muretto e entri dentro. Cosa era piano d'eva? Certo. Eia! Cazzo di dito! Il agro non ne farà della volta. Ci saranno state... penso ci comigliari tre d'eva. Andiamo, che andiamo, bubù. Ma chi altro che era di Zeni Gian Mariani, un grattacielo? Ma chi so? L'acqua non gliel'hanno tagliata, gli hanno fatto il coso, gli hanno messo il contattore e gliel'hanno aperta appena. Intanto un minimo di avere l'acqua. E adesso hanno fatto così a questi che gli ha chiuso l'acqua. Perché hanno protestato il sindaco, l'ha fatto un casino a mano, allora sono scesi e gli hanno lasciato un filo d'acqua. Infatti. Adesso gli hanno fatto la domanda di punire ognuno un contatore. Vedrà che ognuno si paga il suo, si paga. Mi pare giusto, non ha già compreso. Non è che tu magari fai una famiglia di 10 persone e devi pulire 100 euro di eva a pagare e noi siamo in due e devo pulire 100 euro di eva a pagare. Non va bene, non è giusto. Grazie. Non è un mediente voi, ma che non vuoi pagare, vuoi portare un'altra ai pesi dell'altri, hai compreso? A parte quello, ci sono anche quelli che non li pagano nulla, che non hanno mai pagato, né in condominio né senza condominio. Di questa maniera sai che paga e che non pagano. Che non pagano il disoccupatore si impicca, o no? Infatti, a un mediente si offende così, va. Adesso il contatore non te lo staccano. Te lo chiudono al minimo, se non paghi te lo chiudono al minimo. Sapete come ti vai a fare a cosa? Lavati, puoi lavare, però non puoi fare un rischio. Boh, non lo so perché i noghi ne l'abbiamo dimontato lui contatori e se si dà le buscate abbiamo buttato un sacco a Banova. Adesso non lo so. Se gliel'hanno riattaccato perché il tizio usato da strappuccio lubricibile da un tubo all'impianto giù, adesso non lo so se è ancora così, boh, non te lo so dire, non ci ho guardato. Grazie, purtroppo non deve venirci di sotto Buruchidi, ed è catta, ne è un bel nome. a mano va pure l'operaio mi ci paga. Noi che si che andano in giro sono gratis. Arrivi mi paga. Boh, ma forse la devi pagare l'Eva. Non dico di farti la pagare le stelle, però un minimo lo devi pagare. Infatti, devi fare così, devi fare, se no, arrivederci. Grazie. Se no, sono costretti a abbassartela, a chiuderti un pochettino l'acqua del contattore. Ehi, andate. Ciao Mari! Ehi, ma lo sai cos'etto? Va a pagare l'Eva, non è di là. Però va mai a via a fare il rebottante, cazzo, all'anere di là. Capito? L'accusa che non sto travagliendo e invece sono aiutato da uno e dall'altro, capito, dalle carezzai, capito? E viene un bel gente furba, capito? Sì, grande, animali, catta, tu devi vedere che non niente via da Don Cini, per tirarsi lo bacco. A farne ci fare un bacco. E fare di là, come ti vedi la messa per la vita? A domandare di là delle offerte che fa la gente, no. Ti finirà le burocolate una di. A Don Gabri, noi. Sono entrati in sacrosia e l'hanno burato di gestinetti che fa, sì, che fai le offerte, no. Ah, il borsello non era nebbizzicato, con tutti i denari le offerte che aveva raccimolato durante le messe di tutta la vita. Vince, io si sono pagato la luce. No, ed è becca, è pure un bel niente, che la rega la bulletta, vira d'aghi e ti la paga esso. O se no, andi, che ti serve la bombola e ti va a regare la bombola a casa e la paga esso. Capito, tu. Mica ne sono belli di chi si persone, Già lo so, sì, già lo so, perché le bombole gliele porta coso, il fratello di... No, faccio il bombolaio, lui gliele porta... Le fa le consegne, lui le fa, da parte di Don Cini. Ehi, la buona arma di Mario Fala gliele porta le bombole. Che le porta questi qua, a me prima mi chiamava per portargli i pacchi a degli anziani, allora, sono molti e non vi so più chi sia a portargli il pacco. Un bel di gente aiuta, un bel, c'è lo so già, c'è l'aiuto a gente, e un bel niente l'hanno pure minacciato, nonostante l'aiutano. Sani pure minacciata, Rosa! E io Rosso così, mi sono provato a minacciarla che non la date di denaro. Ma se arrivi dei carabinieri, burro, e se ci avete se t'avvi. L'altra volta hanno minacciato da Sammer, hanno minacciato. E io ho detto vai e avviate i camminelli, che non venne a te. Andiamo a Sruga a pigliatina, va. Io non avevo da nessuno essermi Don Gabino. E cosa vuoi arrangia? Ti vai a curare fatti che ci ti piace, no che non venuta. Lui non ne doveva dare dall'inizio a nessuno invece. Perché ha visto adesso se ne approfitta. Se ve ne uno che sta divisino a te, che anda ogni dia a domandargli di là. Allora tu mi ci dispiace ma non ne ho. E allora minacciando, dirà, io ho gruggane, e mi si è avvicinato, ha detto a vedere, Don Gabri cosa c'è? E questo qua viene ogni giorno, sa che non gliene do, e non ci deve più venire. Gli ho chiamato i carabinieri l'altra volta, e tanto no. Allora ha buttato rugane, a vedere se si è avviato, Ehi, se lo so con i segni, sono una massa di miserabili, fanno schifo qua, per carità. Non la giudi, no. Dappi mi la segnali pure, hai compreso? Di come hai detto, ma lì, hai visto la sera? Che si dice, se ti senti, che domandate un'offerta per l'ambulanza nuova, invece si ridere niente, dirà. L'hai vista la striscia la notizia, a ridotti? No, mi è sfuggito quel pezzo lì, quel pezzo non l'ho visto. Ieri notte, dall'altra volta l'hanno fatto vedere, e ieri notte l'hanno ripetuta. Ma che faccia gatta, ti immaginate, quella Issa femmina che comandava tutto, a ratti faccia bustinosa e va via Issa gatta, gatta. A domandare, gatta, di tirare per l'ambulanza nuova, gatta, invece era tutto falso, era tutto ben casetti, capita. E viene a dire così, gli domandanti. Fammi se ne ci rientri, gli dina. E di tutti rimanere, viene schifosi, già. A terra aveva una faccia in terra, però per solo se ne trovano di tutti i tipi, di tutti i colori, per carità. E poi si bisogna la massima manna pure andare delle cose, capito? Roba da pazzi, l'italiano fa dire dai, un di passo da se ma con roccia in terra, ed è così. Storie, avanti. Cioè, tassa di soggiorno a Sassari, anche se ti viene da Vura, ma così non vi viene più nessuno. E che soggiorno, non ve un cazzo a Sassari, e che vive? Stanno venuti a Sassari, e che non viene il bar i Candarieri, c'è sempre pieno, stanno venuti, e che non viene il bar Ogosi, Casa del Sardo, tutti che sono i lunghi, però devi far pagare, no? O grazie ci devi venire ai nonni. E così già vieni bene in bocca a Sassari. Così non vi viene più nessuno. Già è tutto un casino al centro di Sassari con tutti i sicilli che stanno intaccati. E Chihuahua. E cosa vuoi, burissima? Cosa vi manca? Nelle squimesi burro vi manca. Purtroppo sì. E ora vi ha buttato 2 euro a persona, cazzo, non so assai no 2 euro, quando arrivi 2 euro entri e sei in cose, come ti sono fatto tutti gli altri zindai. Allora comincia a patruire, a farti pagare da tutti i cicimi che vi sono vivi e che si chihuahua. Bene, bene, anche uno va bene, anche due, secondo cosa stai mangiando. Mori, mori, sì, ma si varati, so. Mori, e tu cosa sei mangiando, quella dattista di vino? Niente ancora, lui. Niente. Mi sono preso un po' di vino stasera, quello bianco frizzantino, no? È buono veramente. Ma, però... No, non fa magnagustino, magari hanno a dare una dazzita gli avevo, dai. Ma prima non è possibile, non è bevo vino io. No, il compagnia un bicchiere i giorni festivi a far bene in compagnia, dai. Andiamo. Oh Giulia, grazie, c'è la dazzita di vino con cosa? Ah, Guramonzitta! Oh, io sono con bisogno dell'antibiotico. Va bene che il sumacco di dottore l'ha detto, ma alla sale un bicchierino di sfumata già me lo posso bere, magari pure due, tre. E l'ha giudizio, e se sto prendendo l'antibiotico, già non muori così. La fatta sai Guido. Così mi ha detto, a rimane che altro sono andato. Ehi, ma se non mi fate il risetto non incassa di nai. I crepe non invade più, a me il risetto di là non incassa. E allora lui le ricette che stacca, i blocchetti, quando lo finisce, quello lo porta all'Inan, e l'Inan gli fa giusto un conteggio e lo spagani. Dai, chiudo, grazie. Sentiamo domani, se Dio vuole, dai. Buon proseguimento serata, saluto le case, ci sentiamo. Ciao, Tò. Nessuno ha mai indovinato. Ciao, a sentire. Ciao anche a Luca. È chiuso, dai. Ma chi sono entrato? Salutatemi se entrai. Riprendo tutto, dai, io chiudo. Sì, ok, ciao Gianmarì. Ci sentiamo domani se tutto va bene, ok. Se prende, grazie. Ehi, buona cena, a domani se coincide. Ciao, saluti, bacioni da parte di Paoletta. Buona cena, buon tutti. Ciao, ciao. Vai lui. Ehi, ciao Gianmarì, dai. Buona cena, buon tutti, salutoni. Alla prossima. Siamo messi a canale 5 adesso, ma intanto stiamo finendo, iniziando di cenare, siamo quasi finiti. Ehi, ma come sta da giù io? Adesso mi chiudo, mi controllo la glicemia, mi faccio l'insulina, piano piano, l'MLM e vai andando. E ne approfitto. Ciao Luca, saluta Marina, la parte mia di Paoletta. Ciao Tore, anche da parte di Paoletta, salutoni, anche chi è in ascolto. Rilancio a Tore e chiudo. Ok, ciao, grazie, stammi bene. Salutami la signora. Ok, ciao. Ciao, ciao, ciao Lu. Ciao, grazie. Mi cambia Maria. Ciao a tutti. Alla prossima, sono da Paoletta, buona cena, mangia poco, mi raccomando, lascia il pandoro, mi. A chi ti vengo dentro, chi va il pandoro davanti alla banca. No, stanno, non c'è, non mi faccio un po' di testa, no, se mi mangio due di quelle specie di formagelle alla marmellata. Quello ti fai un po' di me, cosa penso io? Ma ti fa un po' di te, cosa penso io? Mi faccio il tè, mi mangio due marmellatine, come cavolo si chiamano, quella specie di merendine. Sono rotonde, tipo la crostata. Ho capito, vabbè, ciao. Ciao Tore, io finisco di cenare qua. Poi dobbiamo decidere se uscire o no stasera. Vediamo, là. Ciao Tore, buona cena, a domani se Dio vuole. Ciao, grazie, ciao a tutti. Ok, ciao Luca, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao. Ok.